Eccoci qua, cari amici di Radio Big World, e benvenuti a questa nona tappa della nostra ricerca all'isola di Wight. Viaggerete con noi attraverso le nostre memorie e le nostre esperienze, appunto alla ricerca dell'isola, ancora a Southampton, perché è da qui che pare partirà il nostro viaggio proprio per andare all'interno dell'isola. Ma insomma, Southampton, abbiamo ormai vissuto un po' questa cittadina e ne siamo veramente rimasti colpiti. Intanto è qua che abbiamo consumato, perché ovviamente non sono rimasto da solo, anzi sono con il mio socio che mi supporta e mi sopporta ormai da un po' di giorni, ma gli è toccata questa croce che ormai si porterà fino al nostro rientro in Italia. E dicevamo, abbiamo ieri giusto appunto consumato all'interno della Circle Guest House la nostra prima vera English breakfast, che è una cosa, un mattone incredibile per noi che non ci siamo abituati. Praticamente fai colazione la mattina e non hai voglia nemmeno di cenare la sera. Ma socio, digli ai nostri ascoltatori da cosa è composta questa English breakfast. La English breakfast è una colazione come realmente, come ci hanno insegnato a scuola quando eravamo piccinini, e si faceva inglese alle medie, alle superiori. E è veramente come appunto ci è stato insegnato, con il bacon and eggs, uova e pancetta, con poi un bel letto di fagioli a pomodoro. E poi ci mettono anche quello che un noto amico nostro lo chiamo il wurst travestito da salsiccia. Poi tutto con appoggiato su un toast, un pan carré, un pane cassetta, come venga definito, insomma, tostato. Il filone di pane come da noi non c'è, ragazzi. E quindi mangi con quello. Poi orange juice, caffè. Ammazzaffè, quello no magari. E poi c'è burro, marmellata e caffè solubile. Insomma, salato e dolce tutto insieme per una vera colazione del campione. E diciamo, è anche piacevole, anche se effettivamente a me mi è presa un po' di acidità. Ma insomma, come faranno questi inglesi a mangiarla più o meno tutti i giorni? Non lo so. Io già una volta e mezzo e non ne cavo le mani, insomma, ecco, mettiamola così. Ma continuiamo. La nostra giornata di ieri è stata una giornata non solo caratterizzata dalla prima English breakfast, ma anche da una cosa che per fortuna in tutti questi giorni è accaduta per la prima volta, ovvero una vera giornata di pioggia inglese. Quella pioggia brutta, birbona, ventosa, che non ti dà scampo, non c'è verso di ripararsi. E anzi, molti inglesi che abbiamo notato, e prima ancora di notarli lo avevamo detto noi, si erano armati dei famosissimi chantilly, ovvero quegli stivaloni di gomma che mio nonno usava bellamente per andare nell'orto. E è stato molto carino e interessante vedere che la gente si muoveva con grande disinvoltura appunto con questi stivali per pararsi i piedi dall'acqua, diciamo, che copiosamente stava arrivando. Ma non so, forse per effetto di questa pioggia, forse per altro, noi abbiamo sostato in un pub per molte ore, visto che non c'era verso di andare da nessuna parte, e in questo pub abbiamo notato il fatto che in effetti sono arrivate un gruppo di ragazze, nutritissimo gruppo di ragazze, come dicevamo ieri, chi vestita a festa, chi vestita in un certo modo. Qui non c'è una grossa differenza. Quando un gruppo di amiche decide di divertirsi, lo fa senza pensieri, senza pensare ad apparire, che si sono piazzate bellamente accanto a noi, e c'è stato anche un discreto interscambio magari di conoscenze che abbiamo con queste ragazze, che stavano praticamente facendo l'aperitivo al pub prima di andare a festeggiare il compleanno di Margaret, che finiva 27 anni. Happy birthday to Margaret, anche da parte di Radio Big World. Bene, insomma, dicevamo, poi la giornata è proseguita all'insegna dei pub, perché la pioggia è durata fino all'ora di cena, e il pomeriggio ci ha visto in un pub di Southampton, appunto lo Spitfire Pub, dove abbiamo conosciuto Ben e Victoria, due signori che era una coppia, avranno avuto più o meno all'incirca l'età dei miei genitori, una fra 60 e 70 anni, erano lì bellamente a bersi le loro birrette accanto a noi a vedere la partita della Premier League che davano in televisione, e loro, avendo visto che noi abbiamo esultato ad un gol, ci hanno chiesto il perché. Ma noi abbiamo esultato mica per il gol della Premier League, noi abbiamo esultato per una partita che stavamo giocando la nostra squadra del cuore in Italia in quel momento. E allora abbiamo tirato fuori la nostra bandiera per festeggiare la vittoria della nostra squadra, e loro si sono talmente divertiti a vederci che si sono offerti di farci una foto e hanno addirittura richiesto esplicitamente tramite i microfoni di Radio Big World di portare un caloroso saluto da Southampton a tutta Montevarchi e al Valdarno in generale. Poi la serata, fortunatamente, la pioggia è cessata e è continuata per locali che, pur essendo domenica, erano molto vivi. Socio, la nostra esperienza della sera nei locali, cosa ti è sembrato di vedere di diverso magari dal sabato o di diverso dal lunedì che avevamo passato da altre parti? Bisogna premettere che abbiamo trovato il fine settimana, cosa che condiziona tutte le realtà sociali, quindi essere in una città magari infrasettimana e esserci il fine settimana cambia un po' la movida, i movimenti delle persone, i divertimenti. Noi abbiamo trovato appunto il fine settimana a Southampton, si può dire che c'è un grande movimento di persone, c'è voglia di divertirsi. Southampton è una città di mare, quindi magari non un porto mercantile ma un porto di crociere. Ad ogni modo si respira un'area veramente inglese, fatta di inglesi, con assolutamente zero turismo. Forse gli unici stranieri per 2 o 3 giorni siamo stati noi, o perlomeno gli unici italiani in questi giorni, in queste serate a Southampton. C'è tanto movimento, la città non è piccola, quindi più è grossa più che crea attese, e ci sono persone in circolazione, tanti ragazzi locali e pub che fanno anche più tardi del solito, e come classico dopo i pub ci sono i club, e ci sono tanti club, appunto i ragazzi, le comitive d'amici vanno appunto a proseguire la serata, la nottata più che altro, nei club, e con tutto quello che ne consegue, il divertimento e la chiassosità, insomma. Ed in effetti ieri, a differenza del sabato, abbiamo visto due classiche scene inglesi che quantomeno nel mito collettivo ci vengono spesso raccontate, ovvero una signora anche di una certa età che a un certo punto così da caso camminava con suo marito a braccetto, si è fermata e si è tolta le scarpe per continuare a camminare, e a fine serata, che finisce un po' prima rispetto al sabato, una più giovane ragazza inglese che era piegata letteralmente in due e stava bellamente vomitando. Vabbè, succede. A chi non è mai successo una bella vomitata in Inghilterra? Probabilmente è successa un po' a tutti. Ma cari amici di Radio Big World, il nostro viaggio alla ricerca dell'isola di Wight continua. Siamo arrivati più o meno al capolinea, la stiamo osservando dalla terraferma e cercheremo il modo di arrivarci. Intanto vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani per la prossima puntata del nostro programma Ma dov'è l'isola di Wight. Vi salutiamo e salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Big World da parte mia, di Fumino, e del mio socio in affari in questa pazza vacanza. Grazie a tutti. c'est comme un soleil dans le gris du ciel, dès qu'il canta.